Yeah yo, yeah yo, mi sa la chicken. La sciula shoppa sopra il micro insieme a Rocky. Rocky più sciula, sai com'è bella, e lo sai, sì. A volte scelto peggio di tre spot cercando di consolarmi. Un po' va meglio se mi hai visto, non sono qui per aiutarti. Sto scegliendo di studiare, assicurare il mio futuro. Non finire a 18 anni in fabbrica a spaccarmi il culo. Ho scelto donne amici, una cultura che soddisfi. Ho scelto di cremare forte, nessuno riesce a capirmi. Ho scelto male quando non mi hai scelto, ora stai zitta a rosicare. Non ti bastano due messaggi per farmi dimenticare le mattine in cui mi sono svegliato storto. A volte ho fatto scelte, ma io non me ne sono accorto. Non ricordo quando mai mi son pentito. E se potessi tornerei al giorno in cui io son partito. In questa vita che mi raschia come un vinile, ho scelto di parlare sopra un foglio per farmi sentire. Continuo a credere come Cher, e ho scelto bene a fare in modo che nessuno scegliesse per me. Ci sono scelte in una vita che non senti, che fa male ma è normale, come un jab diretto ai denti. Ma è lo scontro con te stesso che può renderti così. Ma grazie adesso se puoi ritenerti spesso. Qui non riesco ad essere me stesso, ci va poco. Abbiamo fogli, fame e cuore per restare in questo gioco. Delle volte sono scelte colorate tipo sono altre volte più fottute dei bambini di Jackson. Scelgo di restare in guerra, a volte il mondo è una caserma. Cammarate, i miei fratelli della serra sono quelli, strade scure, dopo scelte ad occhi chiusi manco fossimo Boccelli. Ci ho creduto, false come media, tu la buttavi in tragedia, io sceglievo il film muto. Ho scelto di tenermi ciò che è mio, e se la vita è un rigore come la potiro io. Ok, ok, originale sciocchino, PS, poveri stronzi, presto in uscita, l'SOS, click più Rocky, no, scaricalo, yeah yo, Rocky, yeah yo, Shula, qui, e ci sentiamo.